Salvatore. Yes, chef. Name me the dessert. What's the confusion with the menu? Fuck me. Please, name me the desserts. It makes me freaking nervous. So, like, I get freezing. And then, like, I start, like, You can't name me one dessert? If you don't know the menu inside out by now, you should not be here. I'm running a fucking kitchen, not a kindergarten. Get out! Fuck off upstairs with a menu. Hurry up, Salvatore. Blue Jay. Yes, chef. Run upstairs and get Bozo for me, please. Oui, chef. Let's go, Sal. I don't remember. I'm getting in my head, man. You, what are the desserts? Passionate tangerine tart. Pesh? Hold on. Passionate. What? Passionate tangerine tart. Verona chocolate fondant tart. Caramel chocolate tart with banana ice cream. Yeah. Berry pudding. Berry pudding? It's Italian, you dick. Panna cotta. Ah, fucking porco dio. He's fucked that one. Ah, cara Nina, credevi di essere da sola quest'oggi? Sì, pensavo che saremmo state solo io e te. Intime invece no. Invece no, ci hanno scuotato lo studio. C'è una regia affollatissima oggi. Affollatissima, ma guarda, io farei subito intervenire i nostri ospiti per raccontare subito questa cosa divertentissima che farà da soundtrack. Io la voglio il soundtrack, lo dico, certo, sempre, voglio la musica in sottofondo. Sì. Quindi ragazzi e ragazze in ascolto di tutte le età, preparatevi perché la puntata di oggi verrà introdotta da uno strumento fantastico. Sta arrivando. Beato Giovanni Bodeni, martire. La sentite? Mannaggia a San Sandrogio, abate del monastero di Agaune. Mannaggia a Beata Margherita di Lorena, duchessa di Alençon, vedova. Mannaggia a San Marciano, eremita. Mannaggia a San Marciano, eremita. No, rendiamoci conto. È qua tra le nostre mani, è qui, è vivo. Lui, lo abbiamo. Prega insieme a noi. Lo abbiamo qui, prega con noi. Il, signore e signori, il mannaggiatore. Raccontateci subito di cosa si tratta, vi prego. Prima che io mi rovesci tutta la birra addosso. Passo il microfono. Agli inventori e produttori di questo No, inventori no. Degli osservatori. Sì, però ecco, il mannaggiatore è stata una cosa molto buffa, secondo me, che avevo visto nascere qualche anno fa, cioè era un programmino per computer che bestemmiava. E questo, no, già suscitava ilarità. Ma il nome del programmino ve lo ricordate? Il mannaggiatore. Era proprio lui. All'inizio era mannaggia, se non sbaglio, okay. Solo mannaggia, okay. Non vorrei sbagliarmi. No, ma... E poi, secondo me, il mannaggia è un po' l'esempio di come la tecnologia viene incontro alle necessità di tutti. Perché... C'è chi, vero, ad esempio, vuole la mannaggia scritta, no? E si accontenta solo se legge mannaggia Sant'Antonio Abate scritto in testa al terminale, o altri che lo vogliono recitato, o addirittura magari che viene dopo che hai premuto un tasto. Sì, perché no, in genere uno, no, la bestemmia, più che altro la pronuncia, è sempre, quasi sempre, con un tono o arrabbiato o quantomeno con più empatia. Sentite, con tutto questo, no, questo distacco, questa neutralità, è parte della bellezza. Posso svelarvi un segreto? Io avevo un programmino su Windows 95 che leggeva ovviamente le parole in inglese. E io ci scrivevo delle cose atroci in italiano e le pronunciava come lo spot di oggi, come Gordon Ramsay. Come Trenitalia. O come Trenitalia. Non la faccio mai parlare io quella di Google Map, perché... È un po' per dare, diciamo, per rendere omaggio a chi ha costruito questo fantastico strumento, dobbiamo dire che si può scaricare da GitHub, che è un repository, un posto dove stanno molti codici, proprio mannaggiatore, e esistono diverse versioni. Esiste la versione per Arduino, che si può direttamente attaccare a una cassa, oppure anche una versione che può essere messa dentro un gioco per bambini, ad esempio, che lo si può collegare ai tastini della vecchia fattoria e al porco viene associato, no? Sì, perché è il più bello di tutti. Io sono senza parole. Natale vicino, io ho due nipoti piccole, mi serve assolutamente. Perché l'altra cosa divertente, secondo me, è che poi questa idea, no, si è allargata e ci hanno fatto sempre più varianti. Quindi dopo la prima versione che bestemmiava, diciamo, a tuo piacimento, poi c'è stata una versione che pescava automaticamente, come quella che avete sentito, i santi del giorno, che siccome la chiesa, no, ha partorito santi più che poteva, sono tantissimi e i più disparati. E poi c'era anche quella che ti stampava degli scontrini tipo fiscali, che però contenevano la bestemmia del giorno. Sì, poi c'erano, no, le versioni miniaturizzate, quindi più piccole, c'erano le versioni, varie versioni sono anche state incorporate nelle tastierine, no, tipo quelle piccole sempre da bambino o in vari giocattoli. Vi posso dare un suggerimento di marketing? dovete vendere questa cosa a InCloud, a quelli che fanno che hanno praticamente i software per creare le fatture e per tenerti la contabilità. Voi questa cosa gliela dovete vendere a fior di quattrini. Ma per non parlare dei biscotti cinesi. Mi ho sempre il chiesto biscotto perché della fortuna. Biscotti cinesi. Poi il grande progetto era mettere questa cosa attaccata ad un'antenna, ad esempio una piccola antenna FM o un'altra piccola antenna di sorta, con cui si poteva girare per la città e, diciamo, interrompere le trasmissioni, magari settati proprio su Radio Wombat. Su Radio Wombat o su Radio Maria, ragazzi. Dipende da qual era poi il tuo target, e potevi comunque diffondere il verbo del mannaggia. Io sono senza parole, e Natale è vicino, anche il mio compleanno, per cui ricordatevi tutti del mannaggiatore, e non posso darvi l'indirizzo né di posta né dove abito, ma lo voglio assolutamente. Chiunque voglia saperne di più sul mannaggiatore, sui due creatori, che mi sa non sono solamente due, sono, non sono loro, loro diffondono il verbo del mannaggiatore, loro sono... No, ma poi, sempre per rimanere un po' in tema della trasmissione, no? Questa è una trasmissione che approfondisce la, diciamo, il linguaggio e esatto. Proprio la conoscenza, no? E secondo me è molto interessante, perché noi siamo abituati sempre a dire le solite bestemmie scontate che sentite 2000 volte. E questo è contro la ricorsività del nostro linguaggio, esatto. Ecco. Del lessico bestemmiatore, esatto. Giusto? Sì, giusto. Ecco. Cioè, ad esempio, la Santa Sinforosa e Sette Compagni... difficile ti viene in mente, e questa è una delle quante l'algoritmo quanto ne combina, e ne vogliamo sentire ancora, anzi ancora 411, ci sono 410 righe di mannaggia, ragazzi, più no, di una bestemmia 400... al giorno, no scusate, no è vero, non è così, è che per 410, no, è che per ogni giorno ci sono, cioè, tipo, leggici una riga. Sono organizzati per giorni, quindi per ogni giorno ci sono molte decine di santi. Allora, Beata Francesca Schervier. Mannaggia. Ma un altro po' lo mandiamo? Vogliamo mandare? Io ne vorrei sentire altre 2 o 3 mila. Tipo. Perché se ci pensate quanto è lunga una giornata attiva, non per forza lavorativa, sono 14 dipende ore. Dipende anche da quanto guidi. Esatto, soprattutto da dove e dove guidi. Perché se guidi a Firenze il mannaggiatore te lo devi proprio portare... fare l'app del cellulare. Eccolo. Mannaggia a Santi Calderio, Stiriate, Tobia, Eudosio, Agatio e compagni, Martiri. Mannaggia a San Giusto, Martire. Mannaggia a Santi Acindino, Pegasio, Artonio, Elpidero, Anerbodisto e molti altri, Martiri. Questi sono comunque sempre del giorno, non ci sono santi di altri giorni. Ricordiamo che del resto oggi è il 2 novembre, quindi... E per cui... Mannaggia, commemorazione di tutti i fedeli defunti. Per l'appunto. Abbiamo concluso con l'invettiva suprema proprio. Mannaggia a tutti, proprio, i vivi e i morti. L'abbiamo conclusa... alla perfezione, ragazzi, grazie. Probabilmente vi richiameremo. Massima stima. Grazie. Grandissimi. Grazie. E quindi. Che Dio vi benedica. Beh, con questa invenzione, sicuramente, perché se mai dovesse esistere un Dio, sicuramente si sarà rotto le palle, no, di stare dietro a tutti sti santi. Eh sì, eh. Sono 46 in un giorno, insomma. La trasmissione con più ospiti. Avete visto? Erano ogni più scusa più... è buona per infilare qualcuno davanti al nostro microfono. È un piacere, sempre un piacere. Vogliamo che la nostra trasmissione sia condivisa. Io sto scrivendo il mio compleanno sul calendario. Allora, qui abbiamo sotto ai nostri occhietti un calendario sempre grazie bellissimo. A Pierino, il nostro grande amico incontrato tempo fa alla vetrina, che questo calendario che ci dice quest'oggi? Ci dice Trieste protesta contro il vescovo nella chiesa del sacerdote suicida Don Max Swart. E ogni giorno ci racconta qualcosa tipo Vediamo. I grandi segreti. 25 novembre. Paolo IV include l'omosessualità fra i delitti di competenza dell'Inquisizione. Oh, oh, oh. Hai capito? Oppure, vediamo. Oppure ne abbiamo 365. Vediamo uno che differente succederà dall'altro. Perché qui stiamo leggendo il calendario anticlericale. Ecco, 31 una chicca, dicembre, una come chiudiamo il 2017? Sentiamo. Con l'arresto ignobile, arrestato l'ignobile frate inquisitore di Bologna, Pier Gaetano Feletti, per sequestro di bambini ebrei. Ah, capito che roba, capito, ragazzi? L'ennesima, partecipazione della Chiesa, guarda. Oh, grazie. Che bravi, bravi. Spassosissimi e simpaticissimi. Che se non ci fossero loro, Madonna quanto ci si annoierebbe. Ho detto Madonna. Qui sento nominare santi, santini e madonnine. Ma che avete... succede in questa brusca di quest'oggi? Ah, oggi proprio abbiamo il coronamento delle puntate su scurrili e su parolacce e invettive varie. Perché oggi parleremo con cotanto, come dire, citazioni colte, auliche, a partire dal nostro spot di oggi. Non so se avete... Fucking porco Dio. Fucking porco Dio. Non so se avete capito chi era questo. Questo era Gordon Ramsay durante una puntata di non so quale programma, Hell's Kitchen o qualcosa di quelle terribili, sì, che fa, sì, sì. Non ho mai capito che un differenza ci cazzo, sia tra l'uno e l'altro, ma sì, quello. Dove il concorrente italiano è messo in estremo imbarazzo davanti alla rabbia ingiustificata del cuoco, dello chef Ramsay, non si ricorda il carrello, i nomi dei dolci sul carrello. Per cui Gordon Ramsay glielo ricorda con un solerte fucking porco Dio. Fucking porco Dio. Cioè, questa è la bestemmia suprema proprio. Sì. La bestemmia 6.0. Comunque... 666.0. Oggi la puntata numero 9 della seconda stagione della Brusca ha il titolo Maledire Dio. Non ce ne vogliano anche semplici, come dire, spiritualisti e credenti in ogni spirito all'ascolto, buddisti compresi, so che anche loro si arrabbiano molto se viene bestemmiato il Dio cristiano, perché ovviamente quello che noi facciamo lo facciamo per l'amore della linguistica. Sul post di Facebook di oggi che avrebbe annunciato la trasmissione c'era scritto una cosa importante: che questa trasmissione vi salverà dai guai in cui incapperete quando molto probabilmente bestemmierete ad alta voce davanti a una forza dell'ordine, e questa vi farà non solo la ramanzina ma la multa. E voi potrete potrete però giustificarvi dicendo no, perché la bestemmia funziona in questo modo, e noi oggi vi racconteremo come. Vi forniamo degli strumenti veramente utili per la sopravvivenza. Sopravvivenza urbana, visto che se abitate a Firenze, chi ci ascolta da Firenze, ma anche da qualsiasi altra città d'Italia bella grandina, lo sa come funziona. Allora, però, tutto questo chiacchierare e tutto questo mannaggiare abbiamo ballerini. Sì, c'è il cast del flauto magico / schiaccianoci e apri bottiglie orsù. Una bestemmia in torinese, grazie. Venga, grandi ospiti oggi. Dio fa. Oh, grazie. Poi mi spiegherete per cosa sta il fa. Silenzio, rientra con passo felino. Penso che stia per Faust. Dio Faust. Una contrazione, però non ti so dire cosa voglia dire Dio Faust. Faust. Qui c'è qualcuno. Forse Dio Faust con la S. Faust. Però non so. Io sapevo voleva dire falso. Hai capito. Dio falso è bellissima. Siamo che bello, su. Ci piace. Grazie. Un'informazione utilissima. Dio fare Madonna scuccia, no, dicono. Qui sempre fuori delle altre meravigliose. Wow. Eh, Questo è... Ragazzi, non si smette mai di imparare alla brusca. Tutti fermi. Allora, dopo ma questa che c'entra intro, Joyce? Joyce c'entra, perché come Gordon Ramsay, anche Joyce nell'Ulysses, nel libro nono dell'Ulysses, ha citato un bel "The Lord of Things as they are warm, the most Roman Catholics call Dio boia". Tiè. Hamman God. C'è anche la spiegazione dopo. Cioè l'uomo, il Dio che... appende gli uomini, quindi il boia, a seconda delle varie declinazioni dell'omicidio. Ci stanno chiedendo una cosa in regia, io vado avanti intanto. Io ho un amico, un compagno, che ha scritto una canzone bellissima sulla bestemmia, e che sta su YouTube. Sì. Oh, avete visto davvero? Che visto, no, avete, state sentendo, vedete come in diretta si trasforma la trasmissione. Siamo sempre qui pronti per migliorarci, e adesso vi trovo anche, stiamo lavorando per voi. Ora troveremo la canzone. Intanto questo che abbiamo appena citato era James Joyce. I britannici, come abbiamo sentito anche dalla sigla, sono stati e sono tuttora grandi appassionati della questione maledizione divina. Perché? Perché nella loro lingua non trovano un corrispettivo. Invece noi italiani siamo i grandi esperti, siamo i primi nel mondo in questa cosa. Ci seguono soltanto gli spagnoli con qualche piccolo turpiloquio sulla Madre Celeste, e i messicani hanno trovato il file, grazie. E i messicani invece... che oltre a maledire la Madre Celeste, maledicono anche a Mammeta. Hanno una serie di... che sono considerate bestemmie vere e proprie, una serie di ingiurie che si chiamano Infamias de Madre, che può essere Madre Celeste o a Mammeta Tuia. Ma è arrivato il momento... Anzi, posso dire l'ultima cosa, così poi mandiamo le MP3? Sì, sì, ti lascio tutto il tempo. Un ragguardo legale. Hai bisogno. Che oggi la brusca è anche... come dire, consulente giurista. Fino al 99 bestemmiare in pubblico era delitto. Brava, è importante questo. Era fino al 99, delitto penale, qualsiasi bestemmia, anche se poi l'esecuzione del reato in realtà era inesistente. Però intanto oggi, c'era. Sì, penale, per cui 4 giorni di galera per un... Dio porco. Mentre oggi è stata ridotta a un conflitto amministrativo, chiamiamolo così. E alcune amministrazioni locali vietano ancora la bestemmia. Il comune di Bregnano Gerardadda, Lombardia, e dopo che il curato si lamentava della frequenza con cui nel circolo ricreativo della parrocchia durante le briscole i vecchietti bestemmiavano, per cui è andato in comune e hanno fatto una sorta di ordinanza comunale secondo la quale non si può bestemmiare. Ma tu ti immagini una partita di carte senza la bestemmia? Accidenti, ma faccia attenzione, per Dio, ragioniere! Mi ha messo l'asso di bastoni! No, dai. Vabbè. Ecco. E però da luglio 2011 le leggi in vigore cambiano e identificano come... ovviamente sessismo, insomma, come unica bestemmia solamente le profanità, diciamo così, legate a Dio. Ogni insulto a Maria e a vari santi, quindi viva il mannaggiatore, non rappresenta effettivamente una bestemmia o qualsiasi violazione delle leggi vigenti. Quindi scatenatevi. E noi scateniamo le casse con questo pezzo che non abbiamo ancora sentito, ma che ci hanno caldamente consigliato. Ci fidiamo ciecamente. Allora, è poca roba, vediamo un po', ascoltiamolo insieme. Che tu ci creda, che tu non ci creda, lui ha l'oggetto. Oh, Quanti di voi si sentirebbero offesi se dalla mia bocca dovesse uscire un accostamento forse troppo audace tra il nome di Dio e quello di un animale? Ammettete che anche le vostre parole si sono sporcate all'ombra del sole, quando bugiardi precavate nascosti, non solo da noi, ma anche da voi stessi. La parola è la sorgente della comprensione. La censura è l'acqua stagna della repressione. È da rispettare chi sceglie la sua fede, è da condannare chi impone quel che crede. Sull'albero del dubbio si coglie la ragione, la mela con il verme è la religione. Tra tutti gli animali l'uomo è il più bestiale, la sete di potere è un istinto naturale. Se siamo stati fatti a sua immagine e somiglianza, non è la misericordia la dote per eccellenza. È uno sciocco sillogismo, è solo un gioco di parole. Se Dio è tutto, allora anche un maiale. È uno sciocco sillogismo, è solo un gioco di parole. Se Dio è tutto, allora anche un maiale. E allora o lo dite voi, o lo dico io, o lo dite voi, o lo dico io, o lo dite voi, o lo dico io, porco! Olè, olè, questo era il consiglio musicale del nostro esperto di mannaggiatore. Ecco. Bellezza, mi piacciono le scalette che si modificano in corso d'opera. Sì, sì, sì, devo dire mi piacciono. Bene, bene, bene, bene. E insomma, che si diceva? A parte i consigli utili su cosa è e cosa non è delitto penale... C'è una cosa molto carina da dire prima di partire con tutta la parte legata proprio all'origine linguistica della bestemmia, che è, e allora diccela, la pagina Italian Profanity di Wikipedia quindi una delle cose proprio più fruibili in assoluto, che vi consigliamo caldamente di leggere, dove viene spiegata la modalità di combinazione per creare le bestemmie, quindi il profano, no? Secondo loro la combinazione di offese tipo bastardo, puttana, non c'è tanto in realtà quello che appartiene alla nostra cultura, perché effettivamente la bestemmia è parte intrinseca della cultura nazionale italiana. Io sono coltissima. Ecco. Perché poi tu sei sarda, in realtà. No, in Sardegna no, in Sardegna non si usa la bestemmia in nessun modo, in nessun grado. Però, avendo avuto sempre dei parenti toscani, qualcosina mi è arrivata anche quando ero piccola. Ah. E, allora, e quindi tu andavi a dire le bestemmie alle compagnucce di scuola? Un pochino, sì. Però non si dice alla mamma. No. E da qui ne consegue una cosa, no? Dalla combinazione di offese con la parola Dio, Madonna o i vari santi, che è una suddivisione semantica per gruppi. E quindi nome di Dio, nome dei santi, nome della Madonna. Come abbiamo già anticipato prima, è reato solamente bestemmiare Dio, la Madonna dei santi un po' meno, ecco. Per cui è un algoritmo, esatto, Dio / Madonna più turpiloquio, esatto, in generale, aperta quadra e via. Però possiamo iniziare a parlare di questa suddivisione semantica. C'era l'MP3, ma ve l'abbiamo già fatto ascoltare, per cui. Allora, il nome di Dio sembra essere attualmente il più produttivo come riferimento, no? Per la produzione di bestemmie. Perché in quanto numero di varianti, almeno. Per quanto riguarda la Madonna, l'offesa è sempre più o meno uguale, la stessa che si lanciava già nel 500. Pensa sempre quella. Sulla Madonna pesa forse il fatto di essere donna, chissà, è probabile. Sessismo religioso? Se chi spingeva al sessismo? Booty! È probabile che l'offesa di gran lunga più diffusa sia proprio quella di puttana. Invece sui bersagli maschili si esercita più o meno un'inventiva ingiuriosa di diverso tipo, dal maiale al boia, che poi boia in realtà non è un'offesa, è una professione. Ecco. Come se ti chiamassi Dio infermiera. Dio sbirro. Così. Dio anestetista. Dio anestetista. Dio panettiere. Dio estetista. Dio estetista. Dio coiffeur. Dio coiffeur è bellina. Vabbè. Parlaci un po' del Veneto e della Romagna, che si dice dalle tue parti. Nessuna delle due è mia parte. Intanto. Più o meno rispetto a qui, sto esattamente nel centro. Ah. Si diceva Ostia, che in realtà è un'esclamazione, però si fatica a considerarla come una bestemmia, perché un tempo magari poteva risuonare un corpo dell'ostia o porca l'ostia, ma oggi è veramente poco diffuso. E appunto quello dell'ostia è un filone prosciugato. Anche il Cristo è un po' asciuttino come tema, perché la complessità fonetica è particolare. Sì. Però Cristo di non Dio. Non si presta. No. È un nome che non si presta a essere pronunciato in fretta con stizza, è poco malleabile con le altre parole. Ti si intreccia la lingua. Cristo. E poi ovviamente abbiamo la tematica della bestemmia come atto linguistico, e questo è un tema molto lungo. Questo sì, mi dal piace. Campo semantico, quindi Madonna, Dio, Santi e altri, diciamo, come dire, altri orpelli tipo l'ostia, appunto, la Trinità. Ma, scusa, però fermandoci un attimo alla Madonna, ti posso far ascoltare una cosa carinissima? Sì. Ci sei prete che deve benedire la casa. Detto nonna, mettete a posto che deve venire anche qua. Beveta benedire. Valeria. Vale. Magari tu beveta la benedire. Siamo a pace. Oh, Patrick, gaita Valeria, beveta benedire. Dov'è? Che fa impresa lieve, cosa miezza? Come è venuto beveta? Ti da avvisare prima, perché prima te la si può fare. L'ultima è tutto mattina. Padre, mi raccomando, a chi sti un po' che più. Don Pietro, i soldi del pullman. Ah, bene, grazie. Allora vedo solo voi, signora, assunto. Per forza, Don Pietro, che il padre ci dà una creatura a chi la lascia. E il giovanotto? No, grazie, padre. Io parto. Vince. C'è tu, vai, non c'è niente. Come non sai niente? Bugiardo. Io te l'ho già detto, a vedere la Madonna che piange. Mi hai detto a me la Madonna che piange, ma quando mai? Quando... La verità è che a te non ti smuovono nemmeno i miracoli. Eh no, non parliamo di miracoli. Il vescovo non si è ancora pronunciato. E poi c'è stata la dichiarazione di un professore di Napoli, il quale ha detto che le lacrime potrebbero essere la trasudazione del legno stesso, avvenuto per un improvviso cambiamento di temperatura. E guarda la combinazione, sto legno trasudava proprio al posto degli occhi. Con tutto il corpo a disposizione, no, proprio negli occhi. Ci volesse parlare io con sto professore. Va bene, poi si vedrà. Allora venite solo voi. Sì. Vince. No, va. Cioè, l'ho detto già, non è per... cattiverica, non voglio venire, è che non mi sento proprio, cioè in un periodo che loro lo sanno, loro stanno, mi sento, capito, abbattuto, triste, non lo so, non ce la faccio a vedere altra gente che piange e cose, veramente. Come gente? La Madonna che è gente? No, no, che c'è, mi voglio dire che la Madonna non ce la faccio, è un fatto mio, cioè sono io che sto così. E voglio vedere gente un po' più casa, fan. Cioè, non lo so, se la Madonna, sinceramente, se rideva ci veniva. Sì, la Madonna rideva. Che non pute... cioè, sempre miracolo era. La Madonna, cioè, una statua, o rido, o piange, miracolo. Però non lo so, pare che uno va a vedere, mette... non lo so, Cioè, secondo me era meglio pure per voi. Perché a così o professore di Napoli, o cose tra su, se era stato solo zitto. Il professore ha zitto perché il legno, uno poteva dire no, zitto, professore, perché il legno può trasudare, mica può ridere. O se hai mai visto un albero, una sedia che per improvviso cambiamento di temperatura, l'albero che ha la sedia, hai visto, è cambiato, no, perché non, è impossibile. Caro Vincenzo, la colpa è nostra, vuol dire che non gli diamo troppi motivi per ridere. La pace sia con voi, scusate signor Assunto. Ha ragione, ha ragione, l'hai mai vista una sedia ridere? Per un improvviso cambiamento climatico, ride. Capolavoro, Massimo Troisi. Io ho sempre delle difficoltà un pochettino a capire. Sì, chiaro. È una cosa, però... Ma infatti ho selezionato questo pezzo perché era quello più comprensibile fra i tanti. Che bello, mitico. Caso qui c'è lo zampino del demonio che ha preso possesso del microfono. Si è smontato completamente il mio microfono, per cui facciamoci delle domande. Ecco. Vabbè, allora dimmelo. Allora, dimmelo un po', allora quanto vuoi rischiare la visa. Io non attraverso la strada oggi. Infatti si fa tutto rasenti al marciapiede, sì, mi raccomando. Sì, muro. Attenzione. Vabbè. Quindi questo vuol dire che ci crediamo. Evidentemente come qualcosa... Come si crede alla sfiga, giusto? È chiaro, scusa. Bah. Proviamo a Dai, salvarci. Parliamo degli atti linguistici della bestemmia, perché sennò qui davvero fra un pochino si diventa verdi. Allora, facciamoci un attimo, come dire, il un giretto al rovescio. Quella bestemmia come atto linguistico, no? Cioè, è un atto linguistico come qualsiasi parola che viene pronunciata. Quindi è parte di un ragionamento o comunque espressione massima di un momento contingente nella giornata in cui ti scappa proprio... accompagnato da toni, gesti, cose, insomma, o anche molto semplicemente vena del collo ingrossata. Tipo, avete presente Babbo Enio, quello del vernacoliere, il babbo del Troio? Per me l'espressione da assumere con la bestemmia è quella, tirare fuori senza stare a descrivere come, esatto, come agghindato con la scatola di col lupini. Col testicolo destro di fuori. Destro, con la scatola di lupini. No, vabbè, io metto un altro pezzo musicale, te lo dico. Lo metti ora? No, andiamo avanti. Scherzavo, perché... Se no... Ci stava, perché dopo Babbo Enio è difficile andare avanti su qualsiasi cosa. Basta. Allora, l'origine del concetto della bestemmia è ovviamente religioso. Come tale, la bestemmia è sempre stata trattata da chi la avversava, dicono, no? Il suo uso, al contrario, è invece di natura prettamente linguistica. E, per quanto riguarda le bestemmie italiane, diciamo, ci sono ancora pochi studi, ma, strano ma vero, le bestemmie amici canadesi. Canadesi hanno un altissimo profilo. Sono sempre stati troppo avanti. E hanno davvero una bibliografia piuttosto vasta per argomentare quelle che sono per loro delle bestemmie. Non sono andata a cercarmele, non ho visto in cosa constano, però usano una serie di bestemmioni, niente male. Fanno i derivati di ogni esclamazione, praticamente. Esatto. Che bello. Esatto, mitici. Tipo usano Cristo, che per noi è un'esclamazione, invece nel francese del Quebec, come diceva la Nenia, ha prodotto molti, molti derivati, che vengono utilizzati come parte del linguaggio quotidiano senza essere considerati particolarmente volgari. I canadesi, ragazzi, ok? Sciroppo d'acero. Sciroppo d'acero e bestemmie. Eh sì, ecco. Beh, una buona. Allora, ecco. Noi oggi bestemmiamo come sfogo, come atto linguistico particolare, ma la bestemmia odierna in realtà discende dalla maledizione oppure da usi particolari dei giuramenti che venivano, quindi hanno una derivazione medievale. In alcuni casi ne conserviamo le tracce, come per Dio, perché effettivamente la bestemmia è anche semplicemente nominare il nome di Dio a Ivano. Sul divano. Sul divano. E quindi dal per Dio poi c'è una vestigia di giuramenti particolari, come anche le bestemmie meridionali. Tra cui il mannaggia. Vedi, siamo mannaggia. Sempre lì. Che è una maledizione in realtà, però. E in queste frasi, poiché sono state ricavate, quindi le bestemmie ricavate da documenti processuali, si vede in maniera piuttosto chiara come la bestemmia non fosse un semplice intercalare, no? Ma servisse a rafforzare minacce o promesse attraverso una reale invocazione. Aia, scusate, mi sono morso la lingua. Vedi, come una reale invocazione di Dio che viene chiamato a testimoniare della serietà di quanto detto, capito? Ti okay. Dici, vabbè, io c'avevo Dio testimone, cazzi tuoi. Prossima volta ti prepari e lo chiami anche tu. Nonché una sfida, esatto, una sfida a Dio stesso. E c'è un sociologo a Austin che nel 74 ha proposto una tassonomia della bestemmia, rientrando nella classe dei comportativi. Ok, quindi il giuramento a rigore rimane sospeso fra commissivi e comportativi e potrebbe essere tacciato di blasfemia, no? Come espressione potrebbe essere considerata blasfema. Però appunto, sempre Austin dice che l'atto linguistico indiretto, quindi della bestemmia, enfatizza una minaccia, una promessa e appartiene alla classe dei comportativi. E vabbè, poi c'è stata l'evoluzione, no? Già Austin nel 74, insomma, ha studiato e ha cercato, perlomeno dal punto di vista non tanto semantico quanto di uso linguistico, di combinazione linguistica, ha cercato di dare una regola. Però non possiamo trascurare che nell'uso odierno la bestemmia ha un carattere solamente interiettivo, cioè è un'interiezione, un'esclamazione, un elemento, diciamo una valvola di sfogo. E come tale viene percepita dai parlanti, anche ovviamente quindi nella comunicazione da chi parla e da chi sente questa cosa. Quindi però, non ce ne vogliate, ma d'altronde l'essere umano ha bisogno di sfogarsi. È certo, onesto, certo, non si può fare altro. E, ovviamente la bestemmia, essendo particolarmente diffusa, ha perso pregnanza lessicale, soprattutto avendo subito un'evoluzione, no, da quella che era poi la sfumatura giuridica di testimonianza diretta di Dio e quant'altro. E, però la, noi oggigiorno la giudichiamo dall'uso che se ne fa e dalle reazioni a cui dà luogo. E non è possibile supporre che il riferimento di a Dio sia sempre consapevole in chi bestemmia. È vero, peccato. È una forma mentis, un intercalare particolare, tipo in Veneto il famoso Dio cane è proprio un rafforzativo, niente male. Però vogliamo più consapevolezza, ci teniamo. Esatto, esatto. Perché almeno fate una scelta. Ecco. Pausa? Che dire, sì, sì, sì, ti voglio far ascoltare qualcosina. Johnny Ganja Ganja Africa, Africa, Boxing Stilo, Ferry 9999, I will go yo. Hai topato, se pensi che sto si sia flippato, io l'ho dato per questa chance che mi ha dato. Non la butto via, manca se finisca il piatto. Gianni della strada, poi del rap soldato. Se pensi che sto si sia flippato, io l'ho dato per questa chance che mi ha dato. Non la butto via, manca se finisca il piatto. Gianni della strada, poi del rap soldato. Dalle vie di Bolo, da solo con la click. Faccio singolare hip, un paio di anni, Marco Chip. Gianni Jepson, da Londra, della jam. E con i reggaeton, da Arema e Quinto Dan. Autoproduzione coi soldi della strada. Dalla BM, Saga, slega e vada come vada. Gente araba con me, qua come Saddam. Salam alaikum, alaikum salana. Ora te lo dico, sono qua per fare a po' finché il mondo mi ha sentito. Senti me, non ce n'è un saluto al segnale. È tempo che sono massi, butto giù il pugnale. Dal business della busta alla rap industria. Ma se parte della banda, continua con la svista. A colpi di macete si esce dalla giungla. Gioiolo di punta, alla scena da una giunta. Topato. Se pensi che sto si sia flippato, io l'ho dato per questa chance che mi ha dato. Non la butto via, manca se finisca il piatto. Gianni della strada, for the rap soldato. Se pensi che sto si sia flippato, io l'ho dato per questa chance che mi ha dato. Non la butto via, manca se finisca il piatto. Gianni della strada, for the rap soldato. Questo per uscire dai casini e questo per cambiare i miei destini fini. Dindini, soldini per i soldatini, cittadini, paladini, dei partici, i miei pugili contano con me di fare nome e fame trapici. Sapeci MC sbeccano i colpi di sti abici. Frati le MCs non sa cantare fino a 12. Praticano vita grama con i tali in faccia. La mia traccia davanti alla minaccia non frana. Puttana, mai più vita alla montana. Perché di qui a domani finisce la gincana. Fine pusheraggio della settimana. Dalla Havana all'MC Savana, nuova trama. Semi legalizzata alla mia banda qua. Mike Paracuda della strada canta suda. Se pensi che sto si sia flippato, io l'ho dato per questa chance che mi ha dato. Non la butto via, manca se finisca il piatto. Gianni della strada, for the rap soldato. Se pensi che sto si sia flippato, io l'ho dato per questa chance che mi ha dato. Non la butto via, manca se finisca il piatto. Gianni della strada, for the rap soldato. Renga people le mie rime come cocaina. Le cala come anfetamina, fin dalla mattina. Plurivitamina è il talento che mi ha dato Dio. Sono solo io che posso fare a blocco mio. Gianni non aspetta più il ding della campana. La cigliata nel mercato, pensando alla lontana. Pensando alla cacciara che facevo da piscello. Ero monello, puscello, adesso sono torello. Con due palle di un pisello, pronto a duello. A competizione sono il Mike Manganello. Mike Poncerello, sempre con cappello. Pantaloni baggy, fino a ritornello. Cipo lì fa, succa, lecca, lecca. Io batto la stacca, all'MC con la lingua gonfia come una bistecca. La mia c'è la pecca, di essere più speedy. Di qualsiasi forma che respiri. Hai topato, se pensi che sto si sia flippato. Io l'ho dato, per questa chance che mi ha dato. Non la butto via, manca se finisca il piatto. Gianni della strada, for the rap, soldato. Se pensi che sto si sia flippato. Io l'ho dato, per questa chance che mi ha dato. Non la butto via, manca se finisca il piatto. Gianni della strada, for the rap, soldato. Hai topato, se pensi che sto si sia flippato. Io l'ho dato, per questa chance che mi ha dato. Non la butto via, manca se finisca il piatto. Gianni della strada, for the rap, soldato. Se pensi che sto si sia flippato. Io l'ho dato, per questa chance che mi ha dato. Non la butto via, manca se finisca il piatto. Gianni della strada, for the rap, soldato. Sound come siamo brave, come siamo vabbè, brave. Ma ragazzi, ma cioè, se prepariamo una puntata ne facciamo due. Sì, sì, con un altro po' d'acqua e un po' di brodo ne facciamo tre. Guarda, davvero. Delle mine, le minestraie della linguistica. Sì, sì, alla faccia del miso, ecco. Capito? Perché sono le 8:20, abbiamo a disposizione 10 minuti nel rigidissimo orologio della programmazione Wombat. Sempre rigorosamente in diretta, esatto. mai registrazioni. Esatto. Al massimo le repliche, ma sì. Insomma noi... E fedelissime. Appunto per poi lasciare lo scettro a Nautodate con 8 Hertz. Bellino. E quindi ci risentiremo anche la settimana prossima con il secondo capitolo della Maledizione di Dio, con Tipologie delle bestemmie e una piccola un excursus sulla Toscana. Preparatevi, quindi, vabbè. Le fotocopie, vi lascio la dispensa in sì. Vi lasciamo la dispensa in, in copisteria e poi ve le fate fare. Allora, dicevamo comunque, no? Si stava parlando di campo semantico della bestemmia, dell'origine della bestemmia, delle tre, diciamo, delle due, anzi, origini principali dell'evoluzione che ha avuto oggi, quindi a livello proprio di interazione. I rumori che sentite sono le mie craniate con la cuffia. Che... Hai sentito? Hai detto Cristo? Sì, scoppietta. Scoppietta. Scoppiettamento cristologico. Quindi... La bestemmia governata dall'automatismo, dell'inconsapevolezza, del bestemmiare Dio e guidata soprattutto dalla necessità, volontà di esprimere uno stato emotivo ricorrendo a questa espressione che nel parlato generale diciamo è su un piano particolare, delicato, che come dire rintraccia un sacco di ambienti, no? Sociali, dal cattolico praticante al non ci credo ma la bestemmia mi dà fastidio, fino invece al grande amatore della bestemmia che se gliene dici una te ne spara tre. In definitiva, dobbiamo riconoscere che non si può fare affidamento sul carattere intenzionale della bestemmia odierna per classificarla come atto linguistico, perlomeno. Poi ne potete dire quante ne volete per noi, però per classificarla come atto linguistico questa cosa non può essere. E i problemi infatti aumentano. Sempre Austin, questo sociologo che abbiamo citato prima nel suo studio del 74, non riconosce alle interazioni il carattere di atto linguistico. Invece, come succede, no, nella filologia, che succede? Che c'è sempre il bastian contrario. E Searle del 76 sembra farlo invece. Quindi dice che le interazioni hanno un carattere di atto linguistico. Però non si vede quale spazio potrebbero occupare nella, chiamiamola così, tassonomia delle interazioni. Quelle bestemmie non si sa dove collocarle. E altri autori poi sono entrati nel dibattito, ragazzi, adesso non ve li stiamo a dire tutti perché sono veramente tantissimi. Però ce n'è uno che dice: per evitare di confondere completamente la bestemmia con altre interazioni del tutto prive di contenuto proposizionale, come potrebbero essere ai o uffa, che sono semplici esclamazioni, c'è la divisione proposta da Ameca nel 92, quindi siamo leggermente più avanti, no? Tra le formule e le interjections. Le formule sono un atto linguistico, le interjection, quindi uffa, ai, non lo sono. Fine. Abbiamo una settimana di tempo per riflettere su questa suddivisione e per pentirci soprattutto. Pentiti tu, blasfema. E intanto che ci pentiamo, no? Agenda questa settimana non c'è nulla perché perché ci si riposa un pochino, perché dopo fine tutti questi sforzi, fine settimana, Halloween, tutte queste cazzate, le zucche, le robe, abbiamo deciso di riposarci un po'. E quindi anche se c'è qualcosa di interessante noi non ve lo diciamo perché ci teniamo che tutti quanti voi andiate a casina a riposare il sabato. Stavo pensando, ho capito tutt'altra cosa. No. Al massimo una partita a carte a scopone scientifico, esatto. Con bestemmia annessa, chiaro. Che dire, nient'altro. Ricordiamo i nostri canali. Sì, tipo... dai, ma no, ma sono sempre i soliti, faccia minchia, mail... Ecco, mensi ci tengo, postawomat@insiberia.net, magari ecco. Ci potete scrivere qualcosa, la vostra bestemmia, magari inventate una nuova bestemmia e noi la citeremo la settimana prossima. Settimana prossima sempre 19:30 in diretta. E che altro? Guardate il sito, date un'occhiata al sito e al nuovo palinsesto aggiornato. Ci sono un sacco di trasmissioni nuove, interessanti e basta. Che non vi stiamo a elencare perché sono tante, per cui andatele a vedere. Ma poi avete internet a casa, usatele. Dai, su non il sito. Non andate a vedere i video di Gordon Ramsay, che bestemmia. Wombat.noblogs.org, datevi una mossa e... Su, dai. E su, via via. E detto ciò, l'ultimo pezzo. Sì. Saluti e baci. A giovedì prossimo. Ascoltateci in replica, in diretta, ascoltateci al contrario, ascoltateci come vi pare, basta che bestemmiate insieme a noi. E mi raccomando, ricordatevi del mannaggiatore, cercatelo, richiedetecelo. Sì, sempre sì, posta Wombat e saremo lieti di soddisfare le vostre curiosità e di interiezioni. Nonché il calendario di Pierino, il calendario anticlericale 2018. Effemeridi anticlericali. Se volete ordinarlo, noi stiamo per fare un grosso acquisto. Scriveteci in posta@insiberia.net e ci dite quante copie ne volete. Molto carino. Bene, ho detto carino 4 volte oggi, ho un vocabolario veramente povero. non ho più forze nemmeno come per la pubblicità attingere della esatto, non ho più forze per attingere al mio bagaglio lessicale. Bene, arrivederci, a risentirci, ciao, tanti baci. Asibiri. Away. Silly.